Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 3 maggio e Italia in controluce vuole dedicare questa puntata interamente alla squadra di governo. È stata completata a tarda sera, diciamo quasi notte, la spartizione, così come qualcuno l'ha definita. Comunque, diciamo i nomi delle persone che vanno a coprire importanti poltrone, che sono quelle dei viceministri, dei sottosegretari. Noi siamo subito collegati con il neo sottosegretario al lavoro Carlo Della Ringa. Buongiorno Della Ringa. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora chiedo innanzitutto agli ascoltatori se sono d'accordo su questo sistema, diciamo come qualcuno ha definito, di spartizione in vari partiti, 349-238-6666, ma io credo che Della Ringa proviene invece da un mestiere che è quello del giuslavorista. Lei da tanti anni è un grande esperto, forse uno dei più importanti esperti di mercato del lavoro. Cosa si sente di dire in una compagine di governo che metterebbe al primo posto della classifica delle cose da fare proprio il lavoro? Beh, dunque, sfruttando le mie competenze di economista, perché sono di tradizione economista e non giurista, ma certamente mi interessa da tanto tempo di problemi del lavoro, e non posso far altro che ripetere le parole del primo ministro quando dice che il primo posto è il lavoro, la lotta contro la disoccupazione, che io credo debba avvenire su piani diversi, che in ordine di importanza sono innanzitutto la ripresa economica, quindi con tutto quello che implica da fare a livello nazionale e a livello anche internazionale, interloquendo con i nostri partners dell'area comunitaria e dell'area monetaria, per convincerli che la politica del rigore deve accompagnarsi a una politica della crescita. Senza crescita non si creano posti di lavoro. In secondo luogo, preparando meglio i giovani, cioè facendo di quella occupabilità, che vuol dire rendere i giovani più occupabili, l'asse portante della nostra politica del lavoro, come sempre ci è stato consigliato in Europa. Quindi istruzione, formazione professionale, orientamento, accompagnamento, aiuto, incentivi alle imprese. Ecco, un vero piano del lavoro rivolto ai giovani, che possono trovare la loro strada in modo più semplice di quanto non abbiano fatto oggi. Secondo, naturalmente abbattere quelle barriere di costo del lavoro e di qualche rigidità che ci può essere anche nella legge Fornero, per indurre le imprese ad assumere. Noi sappiamo che le imprese non possono assumere più di tanto se non riescono a vendere, se non riescono a crescere, a svilupparsi, a fare investimenti. In questa situazione congiunturale è particolarmente difficile, però ci sono degli spiragli, degli ambiti nei quali forse è possibile far incontrare domanda di lavoro ancora esistente, per un po' che c'è, e offerta di lavoro. Ecco, dobbiamo sfruttare questo, e da questo punto di vista occorre magari abbattere anche un po' alcune delle rigidità che sono comprese nella legge Fornero. Ecco, ma la legge Fornero è proprio tutta da cambiare, o c'è qualcosa secondo lei che va tenuta? Beh, innanzitutto c'è tutta la parte che riguarda la legislazione del lavoro, cioè la regolazione dei rapporti di lavoro, che è molto complessa, intensa, però c'è in atto un monitoraggio, una verifica dei risultati della legge. Allora, dovremmo resistere alla solita tentazione italiana di rifare le cose ancora prima di capire se queste funzionano o meno. Allora, su una serie di cose, compreso il famoso articolo 18, dobbiamo verificare diciamo se funziona o non funziona. Abbiamo certamente dei messaggi che, insomma, per certi aspetti dovrebbe essere rivisto ancora, ma prima di rimettere mano una cosa che sappiamo potrebbe essere origine di ulteriori conflitti, vediamo se funziona o meno sulla base del monitoraggio. Poi invece ci sono alcune cose, soprattutto sulla flessibilità in entrata, che c'è un grande, diciamo, una grande richiesta da parte di tutto il mondo delle imprese di rivedere alcune cose. Ecco, lì si tratta di rimettere attorno al tavolo le parti sociali e con loro vedere se in questo periodo di crisi economica, dove vanno sfruttate tutte le occasioni di lavoro, certamente quello che danno un minimo di garanzia di protezione al lavoratore, ecco, in questa situazione in via eccezionale non si possono rimuovere alcuni paletti alla flessibilità in entrata, e parliamo del contratto a tempo determinato, per esempio, che erano stati messi dalla legge e che forse per qualche tempo andrebbero rimossi. Grazie mille, Carlo Della Ringa, in diretta, neo sottosegretario al lavoro. Dunque, i sottosegretari, ai viceministri, dedicata alla puntata odierna di Italia contro Luce, vi abbiamo chiesto 349-238-6666 se siete d'accordo con quella che qualcuno ha chiamato spartizione delle poltrone, qualcun altro il gran banchetto dove si sono seduti praticamente tutti, forse tranne l'opposizione, che attende ora un riconoscimento formale con le presidenze delle commissioni. Sono moltissimi naturalmente gli sms, ve ne leggo qualcuno. C'è chi non vuole far commenti e dice: non sono per nulla d'accordo, è comunque questo il festival delle poltrone, scrive Matteo da Modena. Sarà molto contento, cioè io dovrei essere contento, non capisco questi continui sottintesi che non, a me non, francamente non interessano e non mi toccano, che lo statalista Fassino avrebbe trovato finalmente una poltrona. Poi c'è Marcello da Firenze che dice invece di essere d'accordo, in questo momento serve proprio questo. C'è chi ce l'ha con Renzi che si chiede, Maria Rosa Aria, quando trova il tempo per fare il sindaco. Certamente questo Marco dovrebbe essere un elettore del Movimento 5 Stelle che è durissimo con questo governo e dice: peggio della peggio Democrazia Cristiana. I cittadini vogliono subito la nuova legge elettorale, dice Massimo da Milano. Letta è una brava persona, ma con un governo così è impossibile agire, tutti hanno diritto di parlare. C'è chi ci ricorda che bisogna mettere in giro i soldi, così poi il lavoro si può fare, le aziende possono finalmente assumere, eccetera eccetera. Insomma, a Luigi da Napoli parla di una vera porcata. Questo è il quadro dei primi sms che sono arrivati a 349-238-6666. Ecco, ora mi collego con Roma, dove c'è per noi Alessandra Schepisi, perché il quadro è naturalmente più ampio dei nomi. Fino a che ora sono andati avanti a litigare, credo, a discutere? Ecco, le trattative sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, poi però culminate in un consiglio dei ministri lampo, durato davvero 20 minuti. E come ci si è arrivati? In realtà, appunto, sono 37 sottosegretari e 10 viceministri, sono stati scelti in realtà per non scontentare nessuno, c'è chi dice con il bilancino, con il manuale Cencelli. Alla fine sono 23 di provenienza PD, 10 PDL, 5 Scelta Civica, 2 di Grande Sud, sono una rappresentazione diciamo completa di quella che è l'alleanza che sostiene il governo. Ci sono molti volti nuovi, alcune conferme, alcuni personaggi però in realtà lontani tra loro e pochi big, c'è cioè chi parla di un esecutivo infatti debole, fragile, perché l'assenza poi di nomi che contano porta a una deresponsabilizzazione dei partiti. La partita più complessa sicuramente è stata quella del Ministero dell'Economia, Stefano Fassina, braccio destro dei Bersani, nonché leader dei cosiddetti giovani turchi, è diventato viceministro. Fassina che in realtà aveva espresso anche forti dubbi sulla squadra di governo, Letta l'ha voluto anche includere strategicamente, anche forse per facilitare un compromesso sul tema dell'IMU e dell'IVA. Sarà difficile però la sua coabitazione con l'altro viceministro, il PDL, Luigi Casero, ex sottosegretario del governo Berlusconi, due hanno idee diverse su alcuni dossier. Ministero della Giustizia invece è un dicastero pesante, ma non ci sono viceministri, solo due sottosegretari, dunque una scelta, come dire, a bassa intensità in un dicastero invece a forte rischio di conflitto di attrito. Il PDL ha poi preteso la nomina di Gianfranco Miccichè, leader del Grande Sud, che va alla pubblica amministrazione, la fedelissima del cavaliere Michela Biancofiore conquista la poltrona di sottosegretario alle pari opportunità. Al Viminale arriva Filippo Bubbico, uno dei 10 saggi chiamati da Napolitano. Tra le sorprese Antonio Catricalà, già sottosegretario alla presidenza con Monti, che diventa vice ministro allo sviluppo, mentre non entra nella squadra un'altra figura di spicco del governo Monti, Piero Giarda, depennato anche Marco Minniti, renziano Roberto Reggi. Diciamo che in generale nel PD i fedelissimi di Letta sono rimasti fuori per far largo, far spazio ad altre aree del partito che chiedevano un riequilibrio rispetto alla componente più cattolico-moderata. Non tutti alla fine ovviamente sono stati accontentati, e tra l'altro poco fa le dimissioni del segretario regionale del PD piemontese Gianfranco Morganto, motivo l'esclusione di una rappresentanza del Piemonte nella squadra di governo. A te, Daniele. Bene, grazie. Da Marco, che precisa di non essere un elettore dei 5 Stelle, ma dice: ringrazio Grillo per il danno che ha fatto, ovvero favorire la restaurazione. 349-238-6666, vi abbiamo chiesto se quello che abbiamo visto con i viceministri e i sottosegretari è una spartizione delle poltrone. Il Festival del Poltrone l'hanno piazzato anche Micciche. Siamo a posto, dice Stefano. L'importante è che chi di dovere si rammenti che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non sul posto di lavoro, e che certe tutele clientelari spacciate per conquiste sociali andrebbero cambiate, dice Marco Tagliani da Parma. Nando da Cagliari: una bella spartizione da prima repubblica, nessuna novità. Era meglio che dessero un segnale al paese e rinunciassero a tutte queste poltrone che costano tanti soldi, ci ricorda Giovanni da Rimini. Movimento 5 Stelle, SEL e Lega non possono commentare, perché secondo Liam da Venezia ci si trova in questa condizione anche grazie ai loro no. La gente voleva un governo, ora c'è, pensiamo ora al risultato e la finiscono di protestare, scrive Daniela. Sarebbe ora che ci fosse un governo di grande coalizione con una maturità politica che forse in Italia ancora non abbiamo. Andrea da Arsignano: perché prima di giudicare non li lasciamo lavorare, vediamo cosa fanno, ci scrive Maurizio da Genova, e molti altri ancora. Ringrazio come sempre a tutti per la vostra partecipazione, che è veramente ampia, molto ampia. Questo programma va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13:30 e racconta, come si dice, sta sul pezzo, racconta cioè i fatti più importanti della giornata attraverso i vostri commenti, con i vostri sms e attraverso i nostri ospiti e i nostri inviati. Ritorniamo lunedì dunque, come sempre, alle 13:30.